Rafe, la stessa cosa, la prossima volta. Mi raccomando. Sera, porta mi fatica sempre. Però tu ti ne parli. Tu quasi in Napoli, avrai in mezzo a tutti questi marsigliesi. In mezzo a tutti questi strani. Perché tu no? Stai a fare la stessa cosa. No, io sono con me. Ti ho mangiato il passare e fa finire sti amici. Hai fatto buono che me lo vinto. Se è successo? No, trasparatate. Ci vuoi girare con tutto il mondo? Sì, va buono. Ehi! Ciao, voglio.